GR Europa. Dentro o fuori dall'Unione, Cameron invoca il referendum, molte le reazioni, alcune nel segno della diplomazia, ma c'è anche chi parla esplicitamente di ricatto. Sentite il vicepresidente del Parlamento europeo, l'italiano Gianni Pittella. Lui sostanzialmente dice: io voglio rinegoziare i termini di adesione del Regno Unito all'Unione Europea. Nel negoziato più mi date, più possibilità ci sono che vinca il referendum per rimanere nell'Unione Europea, quindi sostanzialmente è un ricatto. Ma certo che se si accetta questo ricatto si apre la stura ad altre richieste, si sollecita il prurito di ciascun leader nazionale a rivendicare il suo particolare. Gli inglesi farebbero un grave torto a se stessi. La City è la piazza finanziaria sulla quale si colloca maggiormente l'euro e un atteggiamento di questo genere, se portato agli ultimi termini, determinerebbe delle conseguenze e delle reazioni anche molto serie rispetto anche alle convenienze della piazza finanziaria londinese. Gianni Pittella è vicepresidente del Parlamento europeo. Nell'area euro serve un patto sulla competitività da affiancare al patto sui conti pubblici, il Fiscal Compact, adottato pochi mesi fa. Così la cancelliera Merkel al World Economic Forum di Davos, competitività definita cruciale. La Germania si impegna a favorire accordi di libero scambio commerciale e a favorire la mobilità dei lavoratori nello spazio UE. Tobin Tax, dopo il via libera dell'Eurogruppo alla cooperazione rafforzata, sentiamo come gli europarlamentari italiani hanno definito una linea comune. Anna Marino lo ha chiesto a Roberto Gualtieri, europarlamentare PD, e ad Alfredo Pallone, in quota PDL. Tobin Tax sì, perché è uno strumento molto utile e giusto per far contribuire il settore finanziario alla lotta alla crisi e per scoraggiare, anche se con un'aliquota molto bassa, gli investimenti speculativi rispetto a quelli produttivi. C'è ancora chi dice no. Ma c'è chi ritiene che introdotta solo in un paese sarebbe inutile perché le risorse andrebbero da un'altra parte. Sul piano politico c'è stato uno spostamento, perché all'inizio la tassa sulle transazioni finanziarie nasce come una proposta del gruppo dei socialisti e democratici europei, quindi è stata votata in Parlamento, quindi alla fine questo positivamente si è creata una maggioranza su questa proposta del Partito Democratico. La conferma nelle parole di Alfredo Pallone, deputato europeo in quota PDL. Sì, a Tobin Tax. Solo i cittadini europei, le imprese europee stanno pagando il costo della crisi, mentre sembra che il settore finanziario sia esonerato da questo obbligo. La Tobin Tax servirà a ripartire meglio gli oneri e i costi della crisi, invitandoli ad un comportamento più responsabile. Come hanno confermato studi della Commissione europea, non sono stati evidenziati impatti negativi dell'applicazione della tassa sul settore finanziario. Anche se ce ne fossero, credo che questo problema Tobin Tax vada a incidere molto meno che altre tasse che sono state inserite in Italia e in altri paesi. Via libera della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo alla proposta di riforma della politica agricola comune post 2014. Il presidente di Commagri, Paolo De Castro, sottolinea il chiaro intento di mettere al centro i reali protagonisti dell'agricoltura, il lavoro e l'impresa. E infine, l'Italia è sempre più la spina nel fianco della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Anche quest'anno il rapporto della Corte Europea fotografa un'Italia da maglia nera. Resta al terzo posto nella classifica con oltre 14.000 ricorsi contro, dopo Russia e Turchia, ma peggiora la sua posizione con 13.741 ricorsi subiti, un numero praticamente raddoppiato in 3 anni, visto che nel 2009 erano solo, si fa per dire, 7.100. Bene, Gigi Donelli al microfono, Roberto Scaltritti in regia, GR Europa continua online su radio24.it. Appuntamento a domani. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.